2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 10 e 11 luglio 2010. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica, il nostro indirizzo digitale è molto semplice, 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet in formato MP3 e come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Già migliaia sono gli ascoltatori che sono abbonati, quindi che ogni settimana possono scaricare anche automaticamente il file della nostra puntata. Ci sono molti che hanno un ricco archivio delle nostre puntate. Alcune notizie prima dei nostri approfondimenti. Oggi parleremo della rete italiana, della rete di telecomunicazioni mobili. È al collasso o no? Sta per collassare o no? C'è stato un allarme lanciato in settimana, ora cercheremo di capirci di più. E poi parleremo tra poco delle cosiddette connected TV, cioè le TV moderne che sono in grado di collegarsi ad internet. E stanno per succedere cose molto interessanti, un ecosistema che sta cambiando grazie ad una presa attaccata ad una TV che permette di andare in internet. Ma dicevo, alcune novità della settimana, alcune notizie della settimana prima dei nostri approfondimenti. Ci sono novità per Google in Cina. Dopo un lungo braccio di ferro che va avanti dalla fine dello scorso anno, le autorità di Pechino hanno rinnovato al gigante di internet la licenza per operare nel paese. È un passo molto importante per il motore di ricerca, che può continuare così ad operare in quello che da qualche mese è il più grande mercato al mondo per internet. Pensate, ci sono oltre 400 milioni di utenti. E pensare che la penetrazione di internet in Cina è molto bassa, ma vista la popolazione così elevata, il mercato è già il primo al mondo. Un mercato dove Google, contrariamente a quello che accade in molti altri paesi del mondo, ha una quota marginale, una quota di mercato piccola, e si scontra con i due veri colossi locali del settore, che sono Baidu e Alibaba. Non ha l'accento, quindi tutti lo pronunciano così. Il già difficile rapporto con le autorità di Pechino si era incrinato, dicevamo, alla fine dello scorso anno, quando Google accusò la Cina di un attacco informatico in grande stile mirato alle email di alcuni oppositori del regime. I tecnici di Google parlarono di tecniche sofisticate utilizzate in quell'attacco, che coinvolse anche altre aziende americane e scatenò la reazione diplomatica del governo di Washington. Google poi minacciò di abbandonare la Cina e soprattutto di non sottostare alla censura di Pechino. Ricordiamo che chi naviga da un computer cinese e fa una ricerca con alcune parole chiave ritenute pericolose dal regime di Pechino fa scattare i filtri del motore di ricerca. Non solo Google, ma tutti i motori di ricerca devono adottare questi filtri. Google, per evitare la censura, ha dirottato per qualche mese il traffico dal motore google.cn, che è il sito cinese, a quello di Hong Kong, e sembra che oggi il punto di equilibrio trovato sia questo, cioè il sito cinese di Google fornirà contenuti filtrati, quindi è in regola, ma per gli utenti rimane, seppur non in modo automatico, comunque c'è la possibilità di utilizzare il sito di Google Hong Kong, che non ha censura. Vedremo poi, perché molti analisti ritengono che il tutto non sia finito qua, quindi vedremo poi nelle prossime settimane che cosa succederà. Intanto ricordiamo che Facebook, Twitter e YouTube, alcuni tra i servizi più utilizzati in rete nel mondo, sono vietati in Cina, quindi non possono essere utilizzati. Tutta questa vicenda è interessante anche per l'Italia, per l'Europa, perché alla base, dicevamo, c'è stato uno spionaggio in grande stile indirizzato ad un gruppo di aziende americane, quindi non solo a Google. La stessa cosa, dicono gli esperti, capita anche nel nostro paese, ma molti si chiedono: siamo adeguatamente protetti contro questi attacchi? Ne abbiamo parlato 2024, sicuramente ne torneremo a parlare in altre occasioni. C'è nel frattempo un altro paese che normalmente è ritenuto uno dei più liberi al mondo, l'Australia, che ha annunciato la sospensione di un vasto programma per filtrare i contenuti di internet. Un programma molto contestato, secondo il quale tutta la rete verrebbe messa sotto controllo e ai cittadini verrebbe permesso di vedere, leggere, ascoltare solo quello che rientra nei parametri governativi di questo programma di filtraggio. Ora, l'Australia si prepara alle elezioni che dovrebbero esserci in agosto e tutto è stato sospeso. Il ministro delle comunicazioni ha detto: beh, ne riparleremo tra un anno. L'associazione delle aziende che operano su internet, gli internet provider australiani, Google, Yahoo e molti altri protagonisti del settore si sono riuniti in un gruppo che si chiama Safer Internet Group e dicono che i filtri sono inutili e andrebbero invece sostituiti con una politica complessa che includa l'educazione e anche ricerche sui giovani. Insomma, la situazione è piuttosto complicata e si inserisce all'interno della campagna elettorale. Adesso parliamo di un altro scenario, quello che potremmo definire della TV che cambia nell'era di internet, partendo questo scenario che vogliamo disegnare, lo facciamo partendo dalle cosiddette Connect TV, cioè le TV che sono in grado di andare in internet, se non proprio navigare in internet, ma collegarsi ad internet. Ci sono già oggi alcune piattaforme che permettono e permetteranno sempre più di cambiare uno scenario al quale oggi siamo abituati, ma per capirci di più ci aiuta il nostro esperto di audio e video digitale Gianfranco Giardina. Bentornato 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Ricordiamo che Gianfranco Giardina dirige il magazine online dday.it, anche di questo avete parlato nelle ultime fiere che avete visitato. Beh, diciamo, come punto di partenza ci sono dei prodotti che si sono trasformati, cioè le moderne TV che permettono di navigare addirittura su internet, cioè si collegano alla rete. Sì, infatti dispongono di una presa Ethernet, normalmente una presa di rete sul pannello posteriore, e questo è l'effetto visibile proprio di primo acchito concreto dal quale si riconosce un Connected TV. E in realtà capita, ahimè, molto spesso che qualcuno compri un TV e non sappia magari che il proprio TV che ha appena comprato si possa anche collegare a internet, perché oramai tutti i TV di gamma media, di gamma alta, dispongono di queste funzionalità, che vengono pubblicizzate, diciamo, per adesso soltanto in parte, perché i servizi ai quali si può accedere sono ancora parziali. Cioè, veramente si sta aprendo un nuovo mondo. Quando ci sarà un parco installato e oramai incomincia a esserci importante di TV pronte a collegarsi a internet, ecco che fioriranno e stanno fiorendo i primi servizi importanti di distribuzione di contenuti e di servizi per i televisori, quindi che si guardano comodamente, si usano comodamente dal divano col telecomando del TV. Allora, fate attenzione perché stiamo per delineare un mondo che sta cambiando molto e che potrà offrirci delle sorprese molto interessanti che coinvolgono proprio il mercato dei contenuti televisivi. Fortunatamente, Gianfranco, siamo di fronte ad una novità tecnologica che di fatto poi si basa su cose conosciute, cioè la presa Ethernet è una roba che conosciamo già, quindi è un'aggiunta, non è una novità in assoluto, non è una nuova sigla che dobbiamo imparare, quindi cose che già sappiamo. Sì, l'unico prerequisito fondamentale è quello di avere un collegamento a internet in banda larga, quindi o in fibra o una DSL, e di quelli sempre attivi, non di quelli che vanno attivati, bisogna fare una login particolare. Quelli, il classico collegamento internet sempre attivo, purtroppo, non so, come se ben sappiamo, non ancora disponibile in maniera capillare su tutto il territorio nazionale, ma oramai largamente disponibile comunque nei centri urbani e nelle zone. Beh, del resto gli ascoltatori di 2024 sanno che uno dei temi che più spesso battiamo è quello della diffusione della banda larga, di internet in generale, del progetto, della costruzione poi anche di una rete di nuova generazione. Quindi su questo tema abbiamo già discusso ampiamente, ma lo faremo anche in futuro, seguendo anche quello che sta succedendo nel paese, anche se le cose succedono effettivamente molto lentamente. Dunque, adesso ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, vi aspettiamo tra poco. Sì. 2024. Ricordo che dalla fine della nostra trasmissione anche oggi potrete trovare online il file MP3 di 2024, quindi potrete scaricarlo dal nostro sito internet www.radio24.it o, come molti fanno, abbonarvi gratuitamente, sottoscrivere gratuitamente il servizio podcast, e con alcuni software che gestiscono i podcast potete scaricare anche automaticamente il file della nostra trasmissione e poi riascoltarlo come preferite, quando preferite. C'è anche chi lo ascolta a pezzetti, 10 minuti al giorno, pochi minuti al giorno. Stiamo parlando delle Connect TV e dello scenario che cambia. Con noi Gianfranco Giardina, che guida il magazine online dday.it. Gianfranco, molti esperti, beh, del resto anche tu, sostieni che i produttori di TV in questo scenario che sta cambiando molto rapidamente potrebbero diventare i broadcaster del futuro, o comunque aggiungersi ai broadcaster, cioè a chi opera nel mondo della TV, oltre a quelli che già conosciamo oggi, cioè le TV, la Rai, Mediaset, Sky, eccetera eccetera. In un certo senso sì, perché non esiste una piattaforma condivisa tra tutti i produttori, per cui un servizio può collegarsi, cioè si può accedere a un determinato servizio in maniera indiscriminata con un TV Sony, Samsung, LG o Panasonic. Ogni produttore allestisce, come dire, un proprio portale che abilita all'accesso a determinati servizi che il produttore del TV decide. Quindi con queste TV non si può navigare in internet normalmente come si fa dal PC? No, non c'è normalmente un browser, ma ci sono proprio dei servizi specifici. Il più classico, il più diffuso, quello già praticamente disponibile su tutti i TV, è per esempio l'accesso a tutti i contenuti di YouTube. Quindi qualsiasi video sia disponibile su YouTube, io posso sempre col telecomando cercarlo, fare una ricerca full text, navigare tra tutti quelli che ci sono e mandarlo in playback. Questo assolutamente via internet, ma non va confuso internet con web. Web è un servizio che c'è su internet, ecco, qui stiamo parlando di altri servizi che usano sempre internet per essere veicolati, ma non il classico browser web, cioè non Internet Explorer, non Firefox, tanto per intenderci. Quindi stanno nascendo alcune piattaforme e appunto Samsung, Panasonic, Sony, eccetera eccetera, potrebbero, o forse già, adesso ti vorrei fare anche questa domanda, avere la propria piattaforma e diventare una sorta di Sky in piccolo o in grande, non lo so. Sì, sono dei pacchettizzatori di contenuti, cioè fanno degli accordi con determinati servizi e piattaforme e possono erogare dei contenuti. Faccio un esempio sicuramente non calzante, così è un esempio chiaro ma non realistico. Se Panasonic domattina facesse un accordo specifico con Disney, potrebbe erogare, per esempio, da domani mattina i canali Disney su una piattaforma che non è il digitale terrestre, che non è il satellitare, quindi è fuori da quel tipo di accordi, è una piattaforma IPTV, e tariffare evidentemente l'accesso a questi canali con dei pagamenti da stabilire, con carte di credito, con degli abbonamenti, comunque né più né meno come fosse una nuova piattaforma. E quindi questo dà luogo a un, come dire, un allargamento del mercato, a nuova apertura e un nuovo ruolo per i produttori di TV, che da meri realizzatori di pezzi di ferro, commercializzatori di pezzi di ferro, se vogliamo banalmente chiamarli così, diventano anche dei service provider. Sicuramente. Oggi ci facciamo aiutare anche da una persona che conosce molto bene questo mondo e come questo mondo si sta trasformando, che sta dalla parte degli erogatori di contenuti. Diciamo spesso che quando parliamo di internet forse una delle cose più importanti è, sì certo, saper avere l'abilità di mettere assieme i contenuti, ma chi ha i contenuti ha sicuramente un valore molto importante. Stefano Scauri è Managing Director di Warner Home Entertainment. Benvenuto a 2024. Grazie. Scauri, come se lo immagina questo futuro, che vedremo tra l'altro tra qualche mese? Lei pensa che effettivamente i produttori di TV possano diventare dei broadcaster e fare concorrenza alle piattaforme che oggi vediamo anche in Italia? Poi naturalmente questo è un fenomeno globale, quindi immagino che molti accordi saranno anche fatti su scala globale. È così, molti accordi, almeno per quanto riguarda la mia società, vengono poi decisi a livello internazionale, se non addirittura mondiale. Comunque è una grossa opportunità per noi che abbiamo i contenuti per due ragioni. Primo, perché potremo ad esempio finalmente offrire un vero servizio di video on demand anche in Italia, perché potremo dare questo servizio sul televisore, che è il suo luogo di destinazione, mentre oggi a causa della tecnologia esistente il servizio di video on demand può essere di fatto dato principalmente su PC, e poi potremo offrire finalmente un'alternativa legale ai nostri consumatori, perché il nostro dovere è comunque quello di fornire i contenuti nei modi, nei tempi e nei luoghi che il nostro cliente, il consumatore finale, richiede, per cui siamo davvero convinti che sia una grossa opportunità per tutti. Tutte queste cose quando accadranno? Tra poche settimane, pochi mesi o addirittura quest'altro anno? Ma noi contiamo e stiamo parlando con alcune delle società di hardware o cosiddetti aggregatori. Noi siamo ottimisti che entro la fine, dopo le vacanze, a settembre-ottobre, si comincino i consumatori possano davvero avere le prime offerte di contenuti interessanti. Per cui io sono ottimista che tutto ciò venga entro la fine di quest'anno. Lei immagina che ci siano degli accordi in esclusiva, cioè che se io compro la TV tal dei tali possa vedere i film di quella casa produttrice, ma se compro la TV di un'altra marca non lo possa fare perché appunto l'accordo è in esclusiva. Ci potrebbe essere uno scenario del genere? Allora, sicuramente il tema dell'esclusiva, come sempre quando ci sono queste cose, è sul tavolo. Per certi versi l'esclusiva rischia poi di, soprattutto nel mondo del cinema dove il consumatore finale non è in grado di associare un film alla casa produttrice, rischia di generare poi un po' di confusione e di far sì che il consumatore non sia contento, perché dice: non posso vedere Avatar, non posso vedere Harry Potter, ma non sa che non lo può vedere perché la casa che detiene i diritti ha un accordo di esclusiva con un produttore o con l'altro. È un tema, ci sono richieste, le stiamo discutendo. Io penso che dovremmo cercare di dare il contenuto a tutti, però fa parte della negoziazione. Certo, anche perché se un produttore che ha un parco installato di milioni di TV offre di più, probabilmente l'accordo in esclusiva potrebbe nascere. Questi accordi lei pensa saranno fatti su scala globale, concretamente, oppure, come abbiamo visto in altre occasioni, come stiamo continuando a vedere, l'Italia rimarrà diciamo in un territorio diverso rispetto ad altre aree del mondo? No, io credo che in questo caso gli accordi, quando partiranno, se c'è la volontà delle società, soprattutto anche di hardware, di farlo, l'Italia sarà considerata al pari degli altri paesi. Noi come Warner stiamo discutendo con le controparti locali italiane, poi entrambi essendo sempre multinazionali dobbiamo poi riportarci ai nostri quartieri generali per fare in modo che tutti questi accordi vengano fatti in maniera coerente nei vari paesi, però non credo che l'Italia resterà indietro. Le faccio un'ultima domanda, poi la saluteremo e la ringrazieremo. Tutto ciò andrà in qualche modo in competizione con le piattaforme attuali, cioè il digitale terrestre, Sky, la TV generalista, eccetera, eccetera, le IPTV, perché insomma ci sono anche delle piattaforme, seppur ancora poco conosciute, ma di Telecom Italia, di Wind, di Fastweb. Esatto. Sicuramente è un altro modo di offrire il prodotto che quindi andrà in competizione con gli altri. Poi ogni distributore cercherà di avere delle peculiarità, tipo la disponibilità dei titoli, il catalogo, la profondità della disponibilità, la freschezza del titolo, per cui poi potranno esserci offerte differenziate, perché pensiamo al catalogo che può avere dei film che esistono, oggi non è possibile trasmetterli in pay per view o sui canali normali, per cui questo tipo di servizi potrà fare ad esempio leva sul numero dei titoli, e magari altri potranno giocare sulla freschezza del titolo. Troveremo un modo di sicuramente in cui coesisteranno, perché poi il consumatore ci sarà comunque, il consumatore che c'è Sky, quello che ha Mediaset e quello che avrà la Connected TV. Bene, Scauri, noi la ringraziamo per essere stato con noi. Buon lavoro, buon viaggio e anche buone vacanze. A presto. Grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti. Beh, sicuramente è uno scenario molto interessante e forse anche ancora inedito. Pochi stanno, sicuramente gli addetti ai lavori, Gianfranco, ci stanno pensando e stanno guardando tutto ciò, ma non so quanti dei nostri ascoltatori abbiano immaginato che dalla presa Ethernet del proprio TV possa scaturire un mondo così diverso. È soprattutto un mondo decisamente più ampio rispetto al quale, a quello a cui siamo abituati. E parlo per esempio del catalogo, parlando di video on demand, perché questi servizi possono accedere a dei server grandi a piacere di video on demand, è chiaro che vuol dire poter accedere a tutto il catalogo, anche a un film di molti anni fa, un film che si voleva vedere, che si era perso, oppure di cui si è parlato con gli amici e dice dai riguardiamocelo. Ecco, questo non si può fare più da tempo col noleggio, perché sappiamo che il mondo del noleggio ormai si è concentrato sui blockbuster, quindi sui titoli più forti, e i titoli di catalogo è difficile trovarli fisicamente a noleggio, e poi il noleggio è stato molto ridimensionato anche da questo tipo di servizi. Oggi si può fare questo, diciamo, noleggio virtuale, di poter vedere un film spendendo pochi euro, prendendolo anche da un catalogo molto vecchio e decidendolo anche la sera stessa. Quindi questo è un grande vantaggio, perché anche avendo facciamo per esempio Sky e quindi le centinaia di canali che Sky offre, è chiaramente un'offerta molto ampia, ma non è precisamente quello che si voleva vedere quando lo si voleva vedere. Quindi una volta che questi servizi saranno funzionanti e soprattutto potranno contare su un catalogo molto ampio, vuol dire veramente autodeterminare il proprio spettacolo casalingo, certo pagando qualche euro, questo sì, però siccome sono servizi in questo momento configurati tutti su un pay per view, quindi si paga solo per quello che si vede quando lo si vede, quindi è proprio come noleggiare un film, come sì. Si faceva una volta noleggiando un film. Sì, sì, sì. Adesso per noi c'è una breve pausa, questo è 2024, ci risentiamo tra pochi minuti. Seconda parte di 2024, seguiteci nel pomeriggio del sabato di Radio 24 tra le 16 e le 17, ma questa è la nostra ultima puntata della stagione, poi durante il periodo estivo andremo in onda tra le 16 e le 16.30 con alcune interviste tra le più interessanti dell'anno e anche alcune interviste nuove che faremo nelle prossime settimane. Se volete scriverci, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, quindi 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre ai nostri tecnici, oggi in regia Carmelo Lauricella. E grazie anche perché alla fine della nostra trasmissione sarà disponibile, proprio grazie ai nostri tecnici sempre veloci, il file MP3 della nostra trasmissione. Stiamo parlando delle Connected TV e dello scenario che cambia e cambierà grazie alla possibilità delle moderne TV di collegarsi ad internet. Ne stiamo parlando con il nostro esperto di audio e video digitale, Gianfranco Giardina. Dunque Gianfranco, poco fa Scauri ci diceva che queste nuove piattaforme potremmo già vederle anche sul mercato italiano dalla fine dell'estate, diciamo da settembre-ottobre. Stiamo un po' larghi come date. Ad oggi quali sono le piattaforme già partite, già concretizzate? Insomma, ci sono già degli accordi globali? Gli annunci stanno arrivando adesso, stanno facendo, non scordiamoci che a inizio settembre, proprio il 2 di settembre, inizia l'IFA di Berlino, che è la fiera più importante per tutti i produttori di TV in Europa, e dove verranno fatti probabilmente molti annunci, molti verranno tenuti proprio per quella data. Già comunque in questi giorni Panasonic ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Aistrax, che è una di queste piattaforme, che già oggi eroga, se vogliamo, su PC evidentemente dei film, quindi ha già gli accordi, la library, proprio sfogliavo oggi, vedevo, non so, avrei potuto vedere Forrest Gump immediatamente, tanto per dire un titolo sul computer. Qualsiasi, sul computer. Questo si potrà fare invece in italiano. Questo si potrà fare invece direttamente sul televisore, col telecomando del televisore, anche in alta definizione, quindi questo è il vantaggio. E questi diciamo aggregatori di contenuti, erogatori di questo servizio, stanno sperimentando ormai con successo la distribuzione anche di film in alta definizione. C'è qualche dubbio sulla tenuta delle infrastrutture di rete con l'alta definizione, sì. Ovvero sappiamo che le DSL hanno delle performance molto differenti a seconda anche da installazione a installazione, quindi bisognerà capire se qualcuno che ha un doppino magari un pochino conciato e sì, quindi una resa della DSL non ottimale riuscirà comunque ad avere un servizio di qualità con l'alta definizione. C'è chi dice che con una buona DSL si possono fare anche due stream contemporanei su due TV diversi in alta definizione con il medesimo collegamento a internet. Qua stiamo parlando di streaming, quindi non di download e poi di visione. No, streaming. E download anche perché i TV non hanno una memoria di massa su cui memorizzare, quindi non possono fare un download e poi un playback successivo. Quindi qui è uno streaming, hanno una memoria, certo, per fare una cache, una leggera cache per tamponare dei momentanei cali di banda, ma in linea di massima è una visione in streaming. Tanto è vero che i servizi in cui si può anche acquistare il film, ma è un acquisto ovviamente non del supporto fisico, ma del diritto di vedere questo film infinite volte. In realtà il film non viene scaricato, ma è semplicemente col proprio account l'utente può entrare infinite volte e lanciare lo streaming infinite volte di quel film. Quindi è un acquisto di un diritto in realtà. Dicevamo Panasonic con Extrax, che è già stato annunciato. In questo caso, scusa se ti interrompo, la piattaforma non è di un produttore di TV, ma è una piattaforma indipendente. Piattaforma è indipendente, ma sarà visibile soltanto sui sistemi Vieracast. I sistemi Vieracast sono presenti sui TV già anche dello scorso anno di Panasonic, sui principali, sui più importanti TV, non su tutti. Quindi sui Connected TV di Panasonic c'è questa piattaforma Vieracast, non solo, anche sui Blu-ray disc con la presa di rete e sui recorder con la presa di rete c'è questa piattaforma Vieracast, quindi non è necessario proprio avere anche un TV, si può usare anche uno di questi apparecchi, un lettore Blu-ray poi collegato, che ha la presa di rete, quindi fa lui da, come dire, da interprete nei confronti della rete, e quindi però sarà una cosa Panasonic. Altri marchi stanno lavorando ovviamente ad avere un loro servizio. Sì, ci sono dei rumor di mercato che uno dei servizi più attivi a livello internazionale, si chiama Vudu, arriverà in Italia, pare, anzi abbiamo conferme che arriverà in Italia sicuramente entro la fine dell'anno. Non si sa bene ancora se con una politica multi produttore, quindi sarà disponibile l'application, chiamiamola così, tanto per essere simile agli smartphone, cioè se l'application di Vudu sarà disponibile solo per un produttore o per più produttori, se è fatto il nome di Sony, se è fatto il nome di Samsung, se è fatto il nome di LG, ma ancora non c'è chiarezza da questo punto di vista e siamo in attesa di avere a giorni qualche annuncio ufficiale in questo senso. Vedremo come si trasformerà questo mondo, però uno dei possibili scenari potrebbe essere quello che appunto uno dice, ieri sera ho visto il tal film, e uno dice ma come hai fatto? È perché ho il TV tal dei tali, magari tu hai la TV di un altro produttore e che non ha fatto vedere L'accordo. Questo sì, il consiglio in questo momento, se vogliamo dare un consiglio, perché poi magari chi acquista il TV in questo momento non è certo di quello di aspettare a vedere come si muovono gli accordi, perché questi accordi poi possono anche capovolgersi e trasformarsi. Però sicuramente se ci si orienta verso l'acquisto di un TV importante per il salotto, ecco, sicuramente un Connected TV. E probabilmente con la presa di rete, quindi. Sì, quindi con la presa di rete, e probabilmente diciamo, il consiglio può anche essere esteso di andare verso marche che siano importanti e conosciute, ma non fosse altro che sono quelle che hanno più probabilità di stringere i migliori accordi con tutti i fornitori di contenuti, quindi quelli che in futuro offriranno più contenuti e più servizi, non soltanto a pagamento, ci sono anche molti servizi gratuiti. L'accesso di cui parlavamo prima a YouTube è gratuito per tutti, quindi basta avere il collegamento internet e il TV ed è gratuito. La stessa cosa, molti produttori adesso stanno facendo i TV con la presa di rete, sempre compatibili con Skype. Quindi è possibile chiamare, videochiamare direttamente dal TV, chiamare gli amici, vedersi, parlare, sia che questi amici siano su un altro TV connesso alla rete oppure su un computer convenzionale. E quindi sicuramente la scelta del TV con la presa di rete è un must, è assolutamente al passo coi tempi. Qualche sorpresa, come dicevamo, potrebbe esserci scegliendo una marca piuttosto che un'altra, perché poi alla fine potremmo trovarci dei servizi attivati e altri no. Bene, io ringrazio Gianfranco Giardina per essere stato con noi. Beh, sicuramente molte di queste cose le potete leggere o le potrete leggere, perché gli annunci verranno seguiti minuto per minuto da dday.it. Gianfranco, buon lavoro, noi ci risentiremo anche nelle prossime puntate, anche durante l'estate. Grazie, a presto. Grazie mille. Adesso cambiamo argomento, parliamo dell'allarme, chiamiamolo così, lanciato da Corrado Calabro, che è il presidente dell'Autorità per le Comunicazioni, l'AGCOM, così la chiamano gli esperti con questo acronimo, che in settimana ha letto la propria relazione annuale. Calabro ha parlato del possibile collasso della rete di telefonia mobile e poiché, come sapete, per noi lo sviluppo delle reti, sia quella fissa, soprattutto quella fissa, ma anche quella mobile, questi sono due argomenti ai quali teniamo molto, perché pensiamo che rappresentino una base, una piattaforma per lo sviluppo economico del paese. Bene, partiamo da questo allarme per poi capire se è concreto, se è vicino, se è imminente. Corrado Calabro. L'Italia è il secondo paese europeo per diffusione della larga banda mobile, ma se non interveniamo rapidamente, con il tasso attuale di diffusione degli smartphone, la nostra rete mobile rischia il collasso. L'AGCOM, con vivo apprezzamento alla commissaria Kroes, sta portando avanti in Europa e in Italia una politica finalizzata alla liberazione in tempi brevi delle frequenze radio. Contiamo di rendere disponibili circa 300 MHz da mettere all'asta per la banda larga. L'Italia, con 15 milioni di smartphone sul mercato utilizzati dai clienti italiani, è al primo posto, secondo una classifica stilata qualche mese fa da Comscore, in Europa per utilizzo di questi telefoni evoluti che, come abbiamo detto più volte, permettono di installare software e soprattutto richiedono uno scambio continuo di dati con la rete internet, non solo per quando si navigano le pagine web, ma anche uno scambio di dati per mantenere vive tante applicazioni. Gli esperti parlano di traffico di segnalazione che crea dei problemi anche sulla rete, perché genera, con tanti milioni di smartphone diffusi sul territorio, genera molto traffico. Ma questo allarme è un allarme concreto? È un problema imminente, già attuale? Beh, ci facciamo aiutare oggi da Stefano Quintarelli, che è sicuramente uno dei massimi esperti di telecomunicazioni in Italia. Stefano, bentornato a 2024. Grazie Enrico e buongiorno a tutti gli ascoltatori. È questa una provocazione? Ha utilizzato Calabro dei termini un po' forti per farsi ascoltare o effettivamente c'è questo rischio? No, questo rischio c'è. Bisogna considerare che, allora, intanto dividiamo gli ambiti, cioè la rete fissa e la rete wireless. Il presidente Calabro si parlava della rete wireless, quella che usiamo con i telefonini, no? Ecco, questa rete è stata pensata e costruita per gestire la telefonia e quindi supportare i tassi di crescita della telefonia, ma una telefonata pesa, rispetto a una pagina web, un cinquantesimo, un centesimo, quindi il traffico generato dagli smartphone o dalle chiavette collegate ai PC ancora di più è molto molto maggiore del traffico generato da una persona che parla al telefono. Lo stress sulla rete è molto maggiore, c'è un tema di disponibilità di spettro che è abbastanza limitato, c'è un tema di quantità di banda con cui le antenne della rete mobile sono collegate ad internet, quindi c'è un tema sia dalla parte di accesso, diciamo, che dalla parte cosiddetta di backhauling, di collegamento verso la dorsale. Quindi il problema effettivamente c'è, la crescita è molto forte, cresciamo di svariate decine di punti percentuali all'anno e bisogna correre per portare nuove frequenze sulla parte di accesso e nuova banda sul collegamento verso la dorsale a queste antenne. Bisogna aumentare anche il numero di antenne per aumentare la copertura, quindi sicuramente il tema c'è ed è rilevante, è quello che i tecnici, gli addetti ai lavori chiamano il bandwidth crunch, cioè un'analogia con il credit crunch, il fatto della scarsità di banda, in alcune zone è già un fatto conclamato ed è esperienza di tutti noi, magari poi non ci facciamo troppo caso, però se proviamo a scaricare la stessa mail di giorno o di notte ci mettiamo pochi istanti e di giorno magari ci mettiamo dei minuti. Sì, anche a volte quando non riusciamo magari a fare una telefonata, probabilmente perché le reti sono congestionate, perché occupate anche a fare altro oltre che a gestire le telefonate. Adesso per noi c'è una breve pausa, continueremo su questo tema tra un minuto. ...2024. Stiamo parlando dei problemi che già oggi ci sono, dei problemi di sovraffollamento, di traffico eccessivo sulle reti di telefonia mobile. Visto il successo non solo degli smartphone, ma anche delle chiavette USB che vanno attaccate ai computer portatili per navigare in internet o comunque ai computer in generale, le reti sono sotto pressione e in alcune zone a volte c'è un affollamento troppo elevato. L'allarme è stato già lanciato da tempo dagli esperti, ma rilanciato dal presidente dell'autorità delle comunicazioni, che questa settimana ha tenuto la propria relazione annuale, e noi stiamo commentando questo problema. Potremmo dire che una volta tanto non è un problema relativo agli operatori, che forse qualche piccola colpa hanno, ma è un problema di sistema paese. Stefano Quintarelli. È un problema di sistema, sicuramente. Qualche operatore investe di più di qualche altro, ha maggiore possibilità di farlo, quindi delle sfumature ci sono, però in linea di massima, direi, cioè per la stragrande maggioranza, è un problema di paese, è un problema di quantità di celle, di quantità di frequenze disponibili e di collegamento delle celle verso la dorsale della rete, come dicevo prima. Sono investimenti non da poco. Chiaramente in Germania è stato fatto con la liberazione delle frequenze determinata dal passaggio dalla TV analogica al digitale terrestre, si liberano alcune frequenze usate precedentemente dalla televisione. In Germania una parte di queste, 360 MHz, sono state messe all'asta e sono andate agli operatori cellulari, che così hanno potuto potenziare la parte di accesso. Adesso il Presidente ha annunciato che nei prossimi anni ci saranno 300 MHz anche in Italia. Ecco, è un po' una rincorsa, questa cosa c'è già stata in Germania, noi dobbiamo aspettare ancora un po' per vedere un po' meno che si verifichi questo. E questo già risolve un problema, la parte dello spettro sull'accesso, risolve, diciamo, perché la soluzione poi non esiste, no? È un problema che continua a spostarsi nel tempo. Quindi diciamo che questa cosa va a tamponare una situazione, la parte delle frequenze di accesso. Poi c'è un tema dell'aumento della densità delle celle e c'è un altro tema che è quello del collegamento verso la rete, per cui lì occorre la parte di rete in fibra. Sì, quindi ricordiamo che la nostra telefonata, ma soprattutto quando con il nostro smartphone oppure con il nostro computer con chiavetta USB ci colleghiamo alla rete mobile per navigare in internet, questo scambio di dati poi finisce sulla rete fissa dopo essere transitato sulla prima cella, quindi sulla prima antenna. Quindi a questo punto ci colleghiamo con il grande tema della rete in fibra ottica di prossima generazione, cioè i problemi che ci sono sulla rete mobile sono grosso modo poi alla fine gli stessi che ci sono sulla rete fissa, e quindi è necessario ancora una volta ribadire, cosa che abbiamo già detto più volte ma non ci stancheremo mai di dire, ma vorrei che tu chiarissi quali sono poi anche i soggetti in ballo e la questione fondamentale, cioè quella della creazione di una nuova rete che superi la DSL, Stefano. Sì, questo, diciamo, allora, se dal punto di vista della rete, dal punto di vista della rete wireless c'è un problema effettivo di disponibilità di capacità, perché l'aria è un mezzo condiviso, sulla rete fissa il cavo che arriva a casa nostra, quel pezzo di cavo lì è un cavo dedicato, quello che entra in casa mia e lo uso io e basta. Quindi i problemi sono diversi ma collegati. Ora, dal punto di vista dell'uso della rete fissa, non è che, cioè, spesso si sente dire che la rete che c'è, ma a che cosa serve avere più banda? Avere più banda serve per poter fare le stesse cose in minor tempo, Cioè, Eurisco dice che in Italia ci sono 6 milioni e mezzo di persone che usano internet per lavoro e che il tempo medio di uso è di 2 ore. Ora, se un finlandese per fare le cose che in Italia ci si mette 2 ore, visto che c'ha una rete che va al doppio della velocità, a 10 volte la velocità, invece di metterci 2 ore, 120 minuti, se ne mette 12, quei 108 minuti di differenza sono 108 minuti di mancata efficienza che il sistema italiano paga, che quei 6 milioni e mezzo di persone pagano. Quindi la rete fissa è importante potenziarla per aumentare l'efficienza e non aumentare il divario di efficienza rispetto a questi lavori che usano la rete rispetto ad altri paesi. Incidentalmente poi la rete fissa fatta in fibra consente in una certa misura di andare a collegare quelle antenne di cui dicevamo prima, però stiamo parlando di due questioni con ordini di grandezza diversi. In Italia ci sono 22 milioni di linee telefoniche, di linee che arrivano nelle case delle persone, le antenne della rete fissa a regime diventeranno 18.000, 20.000, quindi stiamo parlando comunque di cose di ordine di grandezza diverso. Quindi la rete in fibra serve per guadagnare in competitività e non aumentare lo spread di competitività rispetto a paesi del nord Europa o dell'Asia, questo è l'obiettivo primario. Una parte di questa, molto limitata, serve anche a dare la base alla rete mobile, alla rete wireless. Un'ultima domanda, giusto per capire qual è lo stato del dibattito. Sappiamo che il 19 di luglio è programmata una riunione, certo la data non è molto felice perché arriva poco prima delle ferie per antonomasia italiane, una riunione al Ministero dello Sviluppo Economico. Attorno al tavolo in questa riunione dovrebbero esserci tutti i principali operatori delle telecomunicazioni italiane, ma possiamo aspettarci qualche notizia a breve o il dibattito andrà avanti ancora per molti mesi? Ma io ho l'impressione che sia difficile di avere una qualche notizia a breve conclusiva. Qualche notizia ci sarà, però non sarà conclusiva. I punti su cui accordarsi sono tanti e gli interessi sono vari. Chiaramente da una parte ci sono i competitor, il cui interesse è avere la rete all'ingrosso al prezzo minore possibile e con le maggiori prestazioni possibili, e dall'altra parte c'è quello che è il monopolista della rete all'ingrosso oggi, che è Telecom Italia, il cui interesse è quello di tirare più in là possibile la situazione attuale e far andare avanti la rete che c'è. Quindi l'interesse dello Stato, cioè del governo, nel dare competitività al sistema. Il problema è che il valore generato dalle reti è un po' come il valore generato dalle autostrade, non è limitato all'esercente dell'autostrada, è valore portato alla società, no? Cioè il fatto che ci sia un'autostrada porta valore a tutta l'economia, non solo al casellante e a chi fa i lavori di manutenzione. La rete, se fatta, porta valore a tutta l'economia, non solo a chi la... Ecco, quindi l'interesse del paese è un interesse che va oltre gli interessi particolari. Combinare quindi gli interessi dei competitor, avere tanto a poco, l'interesse dell'attuale monopolista, Telecom Italia, andare a tirare più in là possibile, e l'interesse del paese, monetizzare l'infrastruttura, non è un tema facile, cioè ci vuole una leadership molto forte. Diciamo che l'unica buona notizia è per chi organizza dibattiti su questo tema, ci sarà ancora da organizzare molte tavole rotonde, molti incontri. Grazie a Stefano Quintarelli per essere stato con noi, a presto, buon lavoro o buone vacanze. Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori. E prima di salutarci, prima del termine della nostra puntata, ci sono ancora alcuni secondi per offrirvi ancora un estratto, un breve estratto dell'intervento di Corrado Calabrò che parla dell'agenda digitale italiana. Per centrare l'obiettivo della Digital Agenda sono necessari accordi coordinati a livello nazionale tra operatori di telecomunicazioni, amministrazioni territoriali, altri eventuali imprenditori, finalizzati alla progressiva conversione alla fibra di determinate aree territoriali. Ciò darebbe al progetto prospettive di redditività con il carattere di certezza tipico delle utilities e aprirebbe potenzialmente la porta al finanziamento di investitori istituzionali, quale in primis la Cassa Depositi e Prestiti. Seguiamo con attenzione e interesse il tavolo tecnico a tal fine convocato dal Vice Ministro Romani. Non stiamo suggerendo progetti lunari. La Regione Lombardia e la Provincia di Trento hanno già in corso progetti di tale tipo. Progetti sperimentali sono stati avviati anche in alcuni quartieri urbani. In Francia, il governo ha lanciato un piano nazionale per l'economia digitale e l'ultrabanda, i principali operatori hanno deciso di coordinarsi per realizzare una rete in fibra. La legge ha imposto a tutti gli operatori la condivisione delle cablature condominiali. Il regolatore ha posto a consultazione pubblica il quadro regolamentare per lo sviluppo della fibra, che differenzia le regole per le aree urbane da quelle a bassa densità di traffico. Dicevamo prima e sottolineavamo prima il valore economico che può avere la costruzione di una rete nazionale in fibra ottica. Anche questo è stato sottolineato dal presidente dell'Autorità delle Comunicazioni. Certo, è tempo di risparmi, ma l'investimento in fibra ottica è visto negli Stati Uniti e altrove anche come una exit strategy. Secondo uno studio di Confindustria, i risparmi ottenibili nel sistema sanitario mediante l'utilizzazione della larga banda si aggirerebbero sul 10%. Cifra importante se si tiene conto dell'enorme ammontare della spesa sanitaria. E sarebbe di circa 10 miliardi l'anno il risparmio applicabile alla bolletta energetica nazionale per effetto dell'ottimizzazione del controllo dei consumi e delle erogazioni. Rinunciare a un tale progetto non comporta dunque solo la rinuncia del nostro Paese a svolgere un futuro da protagonista nell'innovazione, ma anche una sua minore capacità di reazione alla crisi economica contingente. E con queste parole noi vi salutiamo, vi ringraziamo come sempre per l'attenzione. Questa è l'ultima puntata della versione tradizionale normale di 2024, chiamiamola così. Dalla prossima settimana inizia il periodo estivo, quindi andremo in onda sempre a partire dalle 16 del sabato, ma solo per mezz'ora. Vi riproporremo alcune delle interviste più interessanti effettuate durante gli ultimi mesi, ma faremo anche alcune nuove interviste nelle prossime settimane. Ringrazio anche Anita Panizza in redazione, Carmelo Lauricella oggi in regia e naturalmente tutti i nostri tecnici. Tra poco troverete online il file MP3 di 2024 e come sempre vi consiglio di abbonarvi, di sottoscrivere gratuitamente il servizio podcast di Radio 24. In questo modo potete scaricare automaticamente settimana dopo settimana il file della nostra trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie per l'ascolto e anche per le molte email che ci mandate ogni settimana, cercheremo di rispondere a tutti. Torniamo sabato prossimo a partire dalle 16, per ora buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.